Sono incazzato, interdetto perché ancora solo mondo di bastardi si maschera di bontà. Vita depressa dall'alcol, riscossa, stronzo, sopravvivo. Stronzo, sono cosciente e vivo. Odio ora la compassione. Mondo di cerimonie, non voglio la tua comunione. Sopravvivo. Mi potete pestare, mi potete ingannare, mi potete fregare. Sopravvivo, pronte, sopravvivo. Miau. Sono incazzato, ti ho detto perché ancora solo mondo di bastardi, si maschera di bontà. Vita depressa dalla corriscosta. Sopravvivo. Mi potete pestare, mi potete spedire, mi potete abbandonare. Sopravvivo. Stronzi, sopravvivo. Stronzi, sopravvivo.